Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, il titolo è Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, l'autore sottoscritto. Questo libro lo trovate in tutte le librerie cattoliche, se in qualche modo non è ancora arrivato, sta per arrivare. Comunque, quello che mi preme ancora una volta sottolineare, prima di iniziare questa catechesi, è quella di mettere in chiaro che non è un libro sul demonio, questo è un libro sulla tentazione e quindi sul combattimento spirituale, che però cerca di smascherare la tattica del demonio con la quale cerca di indurci al male, e lo fa esclusivamente basandosi sui testi della Sacra Scrittura e sul Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi un libro rigoroso dal punto di vista teologico e direi che è di somma, di grandissima utilità, perché non è orientato a soddisfare curiosità sciocche nei confronti del demonio, ma piuttosto è orientato a svelare come il demonio nella vita quotidiana cerca di insidiarci, e cerca di insidiarci con la sua tattica subdola, una tattica nascosta, una tattica che punta a non far notare la sua presenza, ma che nel medesimo tempo è molto pericolosa. Perché? Perché ci cerca di distoglierci dalla via del bene, presentandoci il bene sotto forma di male. Abbiamo visto che fra i nemici con cui noi dobbiamo combattere la nostra battaglia in questa vita sono, cioè, la nostra carne, il nostro io egoistico, il mondo e il demonio. Certamente più pericoloso è il nostro io, perché noi sbadatamente, stupidamente ci mettiamo nelle mani del demonio, però non dimentichiamo che il demonio è il nemico delle nostre anime, il suo obiettivo è quello di conquistare le nostre anime per farci degli schiavi del suo regno di morte. Come diceva il Catechismo di San Pio X, egli però Dio contro Dio tenta l'uomo al male. Poi vedremo, cari amici, tutti i significati della parola Satana, che Satana è l'avversario di Dio, quindi poi Satana è omicida, come diceva Gesù, quindi nemico dell'uomo, quindi certamente è raffigurato nella scrittura con immagini molto chiare, quella del drago furibondo, del leone ruggente, del serpente, quindi sulla sua malvagità, sulla sua pericolosità non si spenderanno mai abbastanza parole, le vedremo in seguito. Noi intanto, per chi ha il mio libro, siamo a pagina 15, abbiamo iniziato il secondo capitolo, stiamo analizzando un titolo biblico molto importante, usato nel Nuovo Testamento, Satana che è il principe delle tenebre. Questo titolo indica due aspetti del maligno, e cioè da una parte naturalmente il principe delle tenebre, la parola tenebre in San Giovanni ha un significato ben preciso, cioè significato di menzogna, significato di negazione della verità, quindi in questo senso è l'antidio, principe delle tenebre è l'antidio, cioè nega la bellezza, nega la santità, nega la verità, nega le virtù. Questo è il mondo delle tenebre, è il mondo del male. Ma la medesima parola, principe delle tenebre, sta a significare anche che Satana ama nascondersi. Lui ottiene i suoi più grandi successi quando si dice che lui non esiste. E in questo modo si è disarmati nei confronti suoi, come per esempio si dice che in questa città, in questo paesino ci sono ladri, si possono lasciare le camere, le case aperte, non entra mai nessuno. Se invece poi il ladro c'è veramente, potete immaginare quale bottino riesce a fare. Questa è la situazione che sta vivendo il nostro tempo, dal quale si è negato a lungo l'esistenza del demonio, se ne è comunque negata la pericolosità, anzi lo si è vestito da convertito, sarebbe prossimo alla conversione, si convertirà. Addirittura ho letto recentemente un libro di un esorcista, fra i più famosi fra l'altro, il quale lancia un messaggio sia pure sotto forma di sogno, perché sapete che adesso quando non si vuol dire le cose con coraggio si parla del sogno, sognerei, questo qui sogna, questo esorcista sogna di essere in paradiso e di aver trovato l'angelo bellissimo, eccetera, poi gli chiede chi è, ecco, dice sono Lucifero che sono qui in paradiso, insomma, ecco, Questi sono gli esorcisti di oggi, cari amici. Mettiamoci le mani nei capelli, capito? Sotto forma di sogno insinua che perfino Lucifero alla fine andrà in paradiso. Questo è il clima del nostro tempo, pericolosissimo, contrario alla Bibbia, perché Satana lo si conosce dalla Bibbia. E vi dico subito che io nel mio libro Il Falsario non ho avuto il coraggio molte volte di portare il linguaggio biblico qui fino alle estreme sue conseguenze, perché faceva paura perfino a me. Ma sulla sua pericolosità, cari amici, tutti quelli che hanno sperimentato la tentazione, la sua malvagità, la sua crudeltà, tutti sanno, l'hanno sperimentato sulla loro pelle, quanto odia Dio e quanto odia l'uomo. Noi lo vediamo dalla croce di Cristo. L'odio di Satana lo vediamo nella croce di Cristo. Questa è la festa che ha fatto Satana a Dio che si è fatto uomo. Figuriamoci se noi scampiamo, se Dio non ci proteggesse. Allora, la pericolosità del nostro tempo è proprio questo, che c'è una mentalità pronta a negarlo o a sminuirne la pericolosità, oppure addirittura a metterlo sulle vie della conversione, capito? E quindi è molto pericoloso. Noi di questo secondo capitolo abbiamo visto il primo paragrafo, Satana si nasconde, e abbiamo visto appunto, come giustamente notava il grande scrittore francese Baudelaire, che il suo primo obiettivo è quello di convincere il mondo che lui non esiste. Non se ne ha male se viene sottovalutato, e il fatto di essere considerato un povero diavolo non lo mette affatto di malumore. Per lui l'essenziale è che non ci se ne accorga che c'è, così può tendere le sue trappole e in questo modo arricchire il suo carniere. E adesso affrontiamo un nuovo paragrafo di questo capitolo. È un paragrafo molto importante, e cioè Satana sfugge alla conoscenza umana. Prima vi spiego cosa voglio insegnare attraverso questo capitolo, così poi mi seguite meglio. E cioè, la conoscenza di Satana per via sperimentale è molto limitata ed è anche molto pericolosa. Cosa vuol dire per via sperimentale? Cioè attraverso l'esperienza che noi abbiamo di lui. Perché? Perché attraverso l'esperienza che noi abbiamo di lui, se questa nostra esperienza è illuminata dalla fede, allora noi veramente possiamo smascherarlo e capire chi è. Diversamente, attraverso la via sperimentale, perché certamente Satana si manifesta, per esempio lo è presente negli indemoniati, però è talmente bugiardo che è anche facile sbagliarsi, è anche facile prendere lucciole per lanterne, come si dice. E quindi la via sperimentale, compreso quella degli indemoniati, se non è illuminata dalla fede, porta a degli scarsi risultati. La vera conoscenza del maligno, cari amici, avviene attraverso la fede. Cioè, cosa vuol dire attraverso la fede? Attraverso quello che Dio ci dice di lui. In particolare, la conoscenza del maligno avviene attraverso quella luce vera che è Cristo. Infatti è la luce di Cristo che ha svelato il mistero di Satana come colui che è l'avversario di Dio, l'avversario di Cristo, come colui che Cristo è venuto per combattere, per sconfiggere, al fine di salvare le nostre anime. Dunque, cari amici, Satana sfugge alla conoscenza umana, sia razionale sia sperimentale, cioè tu non puoi conoscere Satana come puoi conoscere qualsiasi altra cosa, perché è spirito, perché è invisibile, perché è subdolo, perché quando si manifesta è mentitore. Allora l'unica conoscenza vera che abbiamo del maligno è quella che ci dà la parola di Dio, in particolare Cristo, parola incarnata, ci svela chi è il maligno, ci svela la sua malvagità, ci svela i suoi fini, cioè il possesso delle nostre anime, ci svela la parola di Dio, la sua origine, da angelo buono che si ribella a Dio, ci svela le insidie che tende l'uomo qui su questa terra, ci svela anche il suo destino ultimo, che è di perdizione eterna. Quindi Satana sfugge alla conoscenza umana, lo si conosce soltanto rettamente attraverso la parola di Dio, non dobbiamo meravigliarci, cari amici, che gli uomini che non hanno la fede non lo conoscano. Potranno avere qualche sentore di lui, ma non possono conoscerlo. Quindi non mi meraviglio affatto che chi non ha la fede neghi la presenza del demonio. Mi meraviglia invece molto che chi ha la fede o la neghi o la diminuisca, perché sappiamo quanto ci istruisca al riguardo la parola di Dio. Quindi questo secondo paragrafo intitolato «Satana sfugge alla conoscenza umana» vuol dire che è una realtà misteriosa che viene scoperta dalla rivelazione che Dio ci fa, in particolare viene scoperta dalla presenza di Cristo. Leggiamo dunque, siamo a pagina 15, e commentiamo questo paragrafo, e dico e scrivo, si rimane giustamente sorpresi se sono i credenti a negare l'esistenza di Satana. Qualche teologo in vena di novità ci ha provato, spiegandoci che il diavolo sarebbe soltanto un simbolo del male. Si tratta di tentativi patetici se si guarda i numerosi testi biblici che parlano del maligno e del suo regno di morte. Mi sorprende di meno invece quando a negare l'esistenza del demonio è un non credente o una persona lontana da Dio. E invece proprio fra i non credenti, cari amici, sapete quale fenomeno strano c'è? Che non credono in Dio ma credono nel demonio. Si vede che se lo sentono addosso. Il demonio, infatti, salvo eccezioni permesse da Dio, non si mostra apertamente e la sua presenza non è sperimentalmente verificabile, come anche molti esorcisti testimoniano. È difficile far venire alla luce la presenza del maligno in un indemoniato, perché il demonio, una volta che si è nascosto e ha preso possesso degli organi o del corpo di una persona, vuole starci senza essere notato, perché sa poi che l'esorcista potrebbe cacciarlo, no? Quindi è sua tattica questa di insinuarsi e di non mostrarsi apertamente, salvo, vi dicevo, eccezioni permesse da Dio. Poi naturalmente è la presenza del sacro o di una persona santa, o addirittura della stessa presenza di Cristo. Sapete che quando Cristo avanzava gli indemoniati urlavano, perché? Perché il demonio sentiva avanzare la santità, la potenza e la verità, quindi si trovava a suo disagio, no? Ma diversamente la sua tattica è quella di inserirsi, di accovacciarsi e di restare nascosto, mimetizzato. Egli sfugge all'osservazione umana e senza la luce della fede non riesce a vedere nella tenebra profonda nella quale si cela. Non dobbiamo quindi meravigliarci se il mondo non lo conosce o ne nega l'esistenza, oppure ne ha una falsa concezione, parlo del mondo, dei non credenti, chi non ha la fede. In un certo senso ciò meraviglia perché egli è il principe di questo mondo, sul quale esercita un grande potere, anche se dopo la redenzione gli uomini possono scoprire e sconfiggerlo. Quindi sul mondo del peccato, dei non credenti, dei lontani, Satana regna indubbiamente, sul mondo del peccato lui regna, però questo mondo in genere non si rende neanche conto della sua presenza e non si rende neanche conto di essere schiavo. Anzi, molte volte in tanti culti degradati si crede di rendere culto a Dio, in realtà si rende culto al demonio, insomma, come quando si adoravano gli idoli o si adorano gli idoli. Avviene un fenomeno apparentemente strano, ma la cui comprensione ci aiuta molto a scoprire la strategia di Satana. Dopo il peccato originale, come dice San Giovanni nella prima lettera, al capitolo 5, al versetto 19, dopo il peccato originale tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, San Giovanni. Il Concilio di Trento non esita a parlare di una schiavitù dell'uomo sotto il dominio del diavolo. eppure gli uomini non ne sono consapevoli. La presenza del demoniaco in tante religioni ha connotati molto incerti ed è ben lontano dal cogliere anche soltanto nei tratti essenziali il volto crudele dell'avversario di Dio e del nemico dell'uomo, come ci appare nella Bibbia. Quindi, benché la Bibbia affermi che dopo il peccato originale il mondo è sotto il potere del maligno, e benché tante religioni parlino del demonio, in realtà la sua vera natura sfugge, non lo si conosce. Perché? Perché la ragione umana da sola non riesce ad afferrarlo, non riesce a coglierlo. Dove si manifesta nella sua natura perversa e pervertitrice è solo nella Bibbia. È lì che il demonio mostra il suo volto crudele di avversario di Dio e di nemico dell'uomo. Tutto questo, cari amici, ha un significato molto chiaro. Satana ama dominare i singoli e la società, tenendoli saldamente stretti fra i suoi artigli, ma senza rivelare minimamente la sua presenza. Egli riesce nell'impresa di dominare i popoli e il mondo intero senza farsi notare. Arriverà il momento in cui i suoi dovranno riconoscerlo come principe del suo regno di desolazione, ma per ora preferisce aspettare. Per quale motivo? Perché se gli uomini lo conoscessero ora, così come egli è, sarebbero colti da tale orrore che fuggirebbero lontano da lui. Quindi lui, attraverso il peccato, domina il mondo del peccato, non tutto il mondo, domina il mondo del peccato, ma questo mondo del peccato che è sotto il suo dominio non se ne rende conto. Anche se quando si arriva agli abissi della perversione poi c'è anche una certa complicità. Perché dunque domina e regna senza che la gente si renda conto? Da una parte perché con la ragione umana non si arriva a conoscere il maligno, dall'altra perché lui stesso sa che se venisse conosciuto per quello che è, gli uomini sarebbero colti da orrore e fuggirebbero lontano da lui. Se rifletti un momento sulla tua vita, forse quanto abbiamo detto ti risulterà più chiaro. Non ti è forse capitato di allontanarti da Dio sulla via del male e del peccato? Cioè ti invito a fare una riflessione sulla tua esperienza personale, no? Tutte le volte che ti sei allontanato da Dio sulla via del male e del peccato, senza che tu te ne accorgessi, Satana ti aveva sedotto con le false luci del mondo e facendo presa sulle tue passioni, si era un po' per volta impadronito della tua vita. Pian piano è entrato in te, distruggendo tutto ciò che la grazia di Dio aveva fatto germogliare e fiorire. Tu, senza renderti conto, ti sei sempre più degradato, diventando immagine della sua tenebra. È il cammino lontano da Dio, no? Quanti di noi l'hanno fatto. Eppure in quel momento pensavi e rischiavi del demonio, ma in quel momento tu pensavi di essere libero, di realizzarti e persino di essere felice. Non ti è mai passato per la mente, forse neppure per un istante, che il maligno si stava prendendo gioco di te, sbattendoti qua e là come foglie al vento e preparandosi a distruggere la tua vita, portandoti fino in fondo all'abisso della disperazione. Se qualcuno ti parlava di Satana, ridevi, o forse sogghignavi, ma egli intanto giocava con te come il gatto col topo. È vero o non è vero, cari amici, che quando noi intraprendiamo la via del peccato, la via della lontananza da Dio, e la via del male, quindi la via delle passioni, la via dell'egoismo, la via dell'ingiustizia, della via dell'impurità, eccetera, non è vero che noi crediamo di essere liberi, di realizzarci, no? Addirittura di essere felici, e non ci passa neanche per l'anticamera del cervello che Satana stia in realtà seducendoci, che stia prendendo possesso della nostra vita, che stia mettendoci in catena e che stia facendoci schiavi del suo regno di morte. Lui stava giocando come gioca il gatto col topo, ma noi negavamo, ma neanche ci sognavamo di credere alla sua esistenza. Perché questo, cari amici, è la verità, che chi è nelle tenebre non vede Satana e neppure sospetta della sua esistenza. E quindi la situazione è ancora più pericolosa, perché è schiavo e crede di essere libero, è cieco e crede di vedere, dice Gesù. Il mondo, parlo del mondo peccatore, del mondo che rifiuta Dio, il mondo che nega Dio, il mondo che si oppone a Dio, non conosce il suo spietato padrone. Mentre Dio ha lasciato le sue tracce nel mondo affinché l'uomo con la luce della ragione salga fino a lui, Satana cancella accuratamente ogni segno della sua presenza. Anche quando possiede il corpo di una persona, cerca di starsene quieto e di non farsi notare. Solo la presenza del soprannaturale lo costringe a manifestarsi. Ecco dunque, cari amici, il significato di principe delle tenebre ha un duplice significato, abbiamo detto. E cioè che Satana è, la tenebra è il male. Secondo San Giovanni, la tenebra è il male. Il male, cos'è il male nella sua essenza? È il rifiuto di Dio, il rifiuto dei suoi comandamenti e quindi il regno del vizio, il regno della impurità, il regno della menzogna, il regno dell'egoismo, il regno della violenza, della sopraffazione, eccetera, no? Questo è il regno del male. Satana è il principe di questo regno che si afferma nei nostri cuori, no? Solo che lui, quando noi siamo, abbiamo preso questa via, percorriamo questa via, lui ci incatena con i nostri vizi, come dice Gesù, chi fa il peccato è schiavo del peccato. E non dimenticate mai che quando noi diciamo che Satana ci incatena, non dobbiamo mai dimenticare che quelle catene con cui Satana ci incatena sono i nostri vizi. Con quelle catene ci incatena. Con quel guinzaglio ci tiene legati a sé, col guinzaglio dei nostri vizi. Sono i nostri vizi la rete con la quale egli ci prende, ci possiede, ci fa prigionieri. Ebbene, noi quando siamo sulla via del male, sulla via dei nostri vizi, e quindi mediante il peccato siamo di lui, del principe delle tenebre, noi non ci accorgiamo che siamo suoi. E questa situazione è estremamente pericolosa. Ora, cari amici, la maggior parte delle persone arriva fino alla fine della vita in questa situazione e poi, senza il pentimento, cari amici, morendo in peccato mortale, si troverà di fronte al suo padrone. E quindi, avendo di fatto seguito il male per tutta la vita, non avendolo rifiutato, anzi avendolo amato, tu avrai come ricompensa il principe del male e sarai membro del suo regno di morte. Quindi per molte persone il volto di Satana si svela proprio all'ultimo istante, quando muoiono nel rifiuto di Dio. Allora lì consapevolmente diventano membri di quel regno di morte, diventano suoi. Va anche detto però, cari amici, che per molte persone per alcune persone che hanno comunque hanno percorso fino in fondo la via della perversione, questo incontro consapevole col maligno può avvenire prima. Cioè, per la maggior parte della gente la possessione diabolica del cuore, che avviene mediante il peccato, il vizio, l'indurimento del cuore, non è ancora un tu per tu col demonio, anzi non ci credono neanche nel demonio, muoiono senza credere né in Dio né nel demonio, ma in quel momento in cui muoiono si trovano di fronte al loro padrone, che li possiede mediante il peccato, no? È lì che allora loro diventano consapevoli, nel momento della morte diventano consapevoli di essere di lui. Tuttavia per alcune persone l'incontro col demonio avviene prima, su questo non c'è dubbio. Quando uno percorre la via della perversione fino in fondo, rompendo tutti gli argini, arriva sempre il momento in cui il demonio si mostra e ti chiede direttamente di diventare suo collaboratore. Oppure anche ad alcuni santi il demonio chiede questo. L'ha chiesto a Gesù Cristo. Quando gli ha detto: ti darò tutto se tu prostrato mi adorerai. Non dimenticate mai che Satana si è manifestato direttamente a Cristo. Naturalmente aveva visto in Cristo l'avversario per eccellenza, quindi a lui si è manifestato, ma non c'è dubbio, cari amici, che Satana ad alcune persone che hanno percorso fino in fondo, ha toccato gli abissi della via della perfezione, si manifesta prima e chiede la loro esplicita adesione. E allora è allora che si manifesta, perché è sicuro che saranno dei suoi, chiede la loro esplicita adesione. Per esempio questo avviene in molti maghi, in molte sedute spiritiche in cui viene evocato il demonio. Allora queste persone diventano strumenti del demonio, consapevoli, suoi servi, suoi seguaci, suoi apostoli, fra virgolette. Voi avete certamente letto, forse l'avrete sentito qui in radio, l'avete letto anche nel mio libro, il Die Sire, l'anticristo di Soloviov. Vi ricordate che a un certo momento Satana chiede all'anticristo la sua esplicita adesione e lui gliela dà. Ecco dunque, per la maggioranza delle persone questo incontro a tu per tu col maligno, il maligno si svela nella sua realtà nel punto di morte, ma ad alcuni si svela prima e chiede la loro esplicita adesione, ma normalmente egli ci possiede senza che noi ce ne accorgiamo, attraverso il vizio, attraverso il male, attraverso il peccato. Lui si acquatta, non si mostra, perché ha paura che gli sfuggiamo. Per oggi, cari amici, ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento toccheremo appunto il tema che ci sta molto a cuore, come sia la rivelazione divina che mette a nudo chi è. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio, edizioni Sugarco.